piazza dell'Est. E viene da una famiglia povera e in casa sono sei. E lei è l'unica figlia. Ormai 2 anni fa decise di tentare nella via dell'immigrazione, contattò un signore che pareva distinto e affidabile. Le promise mari e monti, la portò nel bel paese per farla diventare niente meno che una star. Ma dopo 2 giorni, invece che in TV, si ritrovò per una strada dove ad abbagliarla ed ad umiliarla persone che non hanno cuore e neanche pudore. Ma un giorno la sua vita si è trasformata grazie a un ragazzo. Questo ragazzo che doveva essere uno dei tanti che volevano il suo corpo, decise di farla smettere. Adesso che ha denunciato tutto, può dire che per lei è tutto a posto, ma per le altre non è così. La verità deve venire fuori per dare a quelle ragazze una dignità.